21.05, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Anche per oggi, mercoledì 30 novembre 2011, c'è prove tecniche di trasmissione. Spazio che andrà avanti fino alle 22.30 circa e poi ci sarà 25 o'clock che andrà a concludere questa lunga giornata. Il contatto telefonico 06 49 17 50. Il sito internet www.ondarossa.info, anche per usufruire del nostro streaming. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. E infine il numero di conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Volsci 56 00185 Roma. Come già è stato ormai ampiamente ricordato, da qualche giorno è presente qui in radio la scarceranda relativa al 2017, i due volumi a 12 euro, reperibili proprio qui in radio. Peraltro verranno fatte anche altre iniziative, per esempio il 3 dicembre, e più avanti manderemo anche lo spottino specifico. Cominciamo con il salutare Alessandra qui da Roma, Gabriel e Fabio da Londra e Raffaele, il buon Raffaele Pezzella, come al solito ci supporta in quel di Napoli. E quindi salutiamo tutti gli amici degli Unexpressed Sounds, questo gruppo di appassionati di sonorità industriali e dintorni. Andiamo a concludere questa sera la nostra analisi, il nostro viaggio insieme a Desideri Marginis e il suo Hypnosis, questo doppio CD molto bello uscito 2 anni fa. E questa sera ci ascoltiamo Temple of Andromeda dal secondo CD. mentre sta andando la coda finale di Desideri Margini da questo Hypnosis, secondo lavoro, anzi ultimo lavoro, composto da due CD del 2014, andiamo a salutare una serie di personaggi ora connessi: il buon Raffaele Cerroni qui da Roma, Cristiana qui da Roma, Like Awake, progetto Ambient sempre qui da Roma, Alessio, eccetera eccetera. Dunque lasciamo Johan Levin, esponente principe della scena scandinava Dark Ambient, e apriamo un'ampia pagina dedicata all'underground italiano, alla scena elettronica italiana, sperimentale e anche abbastanza sotterranea. Cominciamo con un grosso calibro che porta il nome di H501L, molti lo conoscono anche per il suo format elettronico musica macchina, che peraltro ha arricchito recentemente il palinsesto proprio qui Radio Onda Rossa. Musica macchina in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 23. Per quanto riguarda invece il suo aspetto e la sua veste prettamente musicale, a brevissimo uscirà questo album dal nome Beatles Collection, che va un po' a giocare con l'ambiguità degli Beatles, con cui ovviamente non c'entra assolutamente nulla, ma è un gioco, se vogliamo, del buon Marco. Ricordiamo anche il passato con Recycle, con Emilio Loizzo, e al contrario di Recycle, e soprattutto in questa occasione, in questo Beatles Collection, viene pressoché abbandonato qualsivoglia stimolazione ritmica, per cui ne viene fuori un album abbastanza fluido, abbastanza rarefatto, che però in parte mi ha ricordato per esempio The Future Sound of London. E questa sera ci andiamo ad ascoltare, cominciamo con il conoscerlo, attraverso due tracce, ossia Biologic e Gute Nacht. H501L. Da questo Beatles Collection. Un saluto al tenente Dan, proprio qui da Roma. Onda Rosso 87.9, prove tecniche di trasmissione fino alle 22.30. Benissimo, era H501L, questo progetto romano. Un nome che è meno misterioso di quanto sembri, in realtà prende spunto dalle notizie dei codici fiscali, del codice fiscale, dove H501 significa essere nativo proprio qui di Roma. L è una variabile indipendente, come ci tiene a sottolineare buon Marco. Quindi H501L, che ascolteremo anche le prossime settimane da questo Beatles Collection, suona un po' a metà tra The Future Sound London, Low Frequency Oscillation, anche Orbital se vogliamo. E ricordo ancora una volta il format Musica Macchina ogni sabato notte da queste frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa. Si rimane in Italia e con l'occasione saluto anche Riccardo Martucci, che oltre ad essere ormai un affezionato nostro ascoltatore è anche fondatore di un progetto, diciamo anche questo un po' sul dark ambient dal nome Diaspora Psichica. Lavoro di esordio dal nome Repeti Anime. E da questo Repeti Anime ci ascoltiamo Collision, Inhibition e Transhumance, tre brevi estratti da questo lavoro d'esordio per Repeti Anime. He knows it's true. Another sound exists. Where access authorizations permit other people without protections. It's true. Ancora diaspora psichica da questo Repeti Anime, album diciamo di esordio sulla lunga distanza per questo progetto proveniente da Taranto. Questa traccia è Transhumans. Benissimo, abbiamo dedicato dunque ampio spazio a questo progetto italiano Diaspora Psichica, peraltro un bel nome. Repeti Anime, tre estratti da questo lavoro autoprodotto. Riccardo Martucci e Francesco Maggi, i due che lo vanno a comporre. Diaspora psichica, che andremo anche a conoscere ancora meglio nelle prossime settimane. Salutiamo dunque Riccardo Martucci a Taranto. Unexpressed Sounds, dunque, ci viene in mente l'infaticabile opera di ricerca di Raffaele Pezzella, questa volta applicata alla scena iraniana. Ian Experimental Underground System Survey finisce oggi questo lungo viaggio che ci ha portato nell'Iran più nascosto. Questo è Hossain Ranki, questo è Burnout. E dunque in queste settimane abbiamo scoperto questo universo sonoro nascosto e che grazie alla Nesplay Sounds e all'opera incessante di Raffaele Pezzella è emerso tra noi. Una compilation che racchiudeva vari artisti, tra cui questo Ossa in Ranchi con Burnout. Cambia leggermente storia, uno degli album più interessanti di questo 2016, ormai in chiusura, ossia Ipno Pazuzu, una collaborazione efficacissima tra David Tibbet di Current 93 e Martin Glover in Art Youth, bassista dei Killing Joke. Anche questo è un album che abbiamo apprezzato a lungo in queste settimane, questo Create Christ and Sailor Boy. Un album che esce per la House of Mythology. Ci ascoltiamo Pinocchio's End Job e Night Shout, Bird Tongue. Un saluto anche a Cesar Naves dalla Spagna. The chorus was Bird Tongue, whilst we traced Grey's face. Oh, whilst hope sweeps infernal in the diurnal house, learning grammar near Armageddon, which may mean the sounds made light for Ankh. There are cloud penguins at massacre. Deform bone in the funny papers, a funny strip as Archie and Meat Wolf meets a blood face. I wished they had birthed me in the bowl. Canal blue sweet, I would have waved. That apocalypse, surely any ending, my roots are in Asherah, even at my brother's breast. I thought I was at the Dagon bar with the usual grab bag of sublime visions, such as Pinocchio and the Golgotha, Pinocchio's hand job, Pinocchio triumphant as Tulip. I wanted the darling child, a double bird. Took him back to the Bark Tower. ancient data is dead. And by the time you write this, this is hung by twice. This is hung by twice. Come light twice, light over the moon, the sun and its tails, the tall grass bending like words, as new as shells, as nooses over the moon, in frank kisses at wolf light, stars lips like killing queens, tracking time through teeth and wings, the middle angels did not speak. I did not speak. In teeth and limbs, but their words were rushed like winds. A reporting laughter, a joyful in your mountain. A splashing throne.